Do il benvenuto sui 103.1 a Giorgio Canali, che è in collegamento telefonico con me, che saluto e do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao Giorgio. Ciao, buon pomeriggio, quello che è. Buon pomeriggio, sì sì. Giorgio, tu ti esibirai il 23 settembre all'interno della rassegna organizzata dal Ponte Lungo Summer Festival e questa data bolognese diciamo che segna un po' la fine del tuo tour estivo. Volevo chiederti com'è andato, visto che si è svolto in una maniera molto insolita, ovvero di fronte ad un pubblico seduto. Vabbè, è andata così perché il mondo funziona così, non ci si può fare niente. Il mondo, cioè non è vero che non ci si può fare niente, non ci si può fare niente con i termini attuali, semplicemente c'è un terrore diffuso che si porta dietro un sacco di paranoie, comprese quelle del maltempo, perché questo concerto, non so se ti ricordi, era stato organizzato in luglio. Esatto, è stato rimandato. È stato per un'allerta maltempo che non c'è mai stato, quindi spesso si dà retta alle previsioni nefaste di qualcuno che decide di rompere i coglioni. Funziona così, e funziona così anche nell'altro senso, purtroppo. Quindi abbiamo tutta la bella gente seduta, distanziata, col green pass, con le mascherine, e poi tutti quanti sull'autobus insieme, e poi tutti quanti a festeggiare l'Italia campione d'Europa tutti insieme, poi tutti al mare insieme. Ma sono quelle incongruenze assurde che fanno sì che un po' alla volta quello che è, forse sono un po' presuntuosa chiamarla cultura, ma penso che sia anche questo, che la cultura se ne vada a fare in culo. Ci piace come incipit. Bellissimo, io infatti rimarrei su questo argomento, se ne hai voglia, perché ti chiedo come musicista cosa pensi appunto della gestione all'interno del mondo della musica, che appunto pare essere un po' messo sempre in secondo piano, vedi concerti con capienza ridotta, ingressi contingentati, restrizioni, la gente sta seduta, e poi invece al di fuori della musica e della cultura succede tutt'altro. Ma vedi, finché gli esponenti di questo mondo della cultura e della musica saranno d'accordo al 99% con chi ci racconta queste stronzate, è normale che poi sia così, non è che ci si possa lamentare, voglio dire, quando la narrazione ufficiale sta bene all'80%, al 90% degli artisti, e quando provi a dire il contrario ti danno del fascista o del mitomane, oppure del terapiatista, del complottista, del negazionista, del Novax. Che bella questa Novax, che cazzo vuol dire Novax? Non so, però il problema è quello, capito? Un problema mentale è che tutti quelli che fino a ieri l'altro ritenevo persone con una mentalità libera, se non libertaria, almeno libera, poi ti rendi conto che accettano qualsiasi cosa gli si venga imposta con paure più o meno sensate, indotte, più o meno indotte. Però sai com'è, quando a un certo punto chi ti racconta le cose, ovvero le versioni ufficiali, sono valide. Io ti giuro che è la prima volta in vita mia, da quando sono nato, sono un vecchio di merda, ho 63 anni, però da quando sono nato è la prima volta che la versione ufficiale sta bene a tutti, e questa è una cosa che è molto strana, molto strana. La versione ufficiale sull'Italico non stava bene a tutti, la versione ufficiale sulla strada di Bologna non è mai stata bene a nessuno, la versione ufficiale sul caso Moro non è mai stata bene a nessuno, adesso ci sta bene la versione ufficiale su questa cosa qua. Questa cosa mi puzza moltissimo, mi puzza di rincoglionimento generale, punto. Tu pensi che ad esempio attraverso la musica, comunque il messaggio che spesso i testi, anche i tuoi testi, cercano di comunicare, possiamo trarre qualcosa da questa esperienza per farne poi del materiale? E nello specifico, tu stai lavorando a qualche progetto in questo senso qua, per raccontare un po' cosa sta succedendo, cosa è successo? Ho fatto un album che è nato durante il primo lockdown, un album di 20 pezzi, quindi un doppio album, che è al 60-70% parla di questa situazione. Tutto lì. Poi più di così non so cosa fare. Comunque con la musica non si è mai cambiato un cazzo, capito? Non è certo Dylan che ha cambiato il mondo, non è certo Pierangelo Bertoli che ha cambiato l'Emilia, cioè la musica non cambia un cazzo, è la gente che deve avere un attimo di intelligenza per capire cosa funziona, cosa non funziona, chi ci sta prendendo per il culo e chi ci racconta cose sensate o meno, punto, punto. Però con le canzoni non si è mai fatto nulla, dai, obiettivamente. Dopo la pubblicazione di questo album, appunto, che è uscito nel 2020, e anche progetti per il futuro, stai già lavorando qualcosa? Ah, tipo morire, perché a 63 anni c'è quel paradigma lì, a parte il fatto che ci stanno dicendo da un paio d'anni che moriremo tutti in brevissimo tempo se non stiamo attenti, quindi l'unica prospettiva che ho è morire. Peccato che sono immortale, capito com'è la storia? E allora mi preoccupo un po' di quello che mi succede attorno, perché voi morirete tutti di quelle malattie che stanno dicendo, io probabilmente no. Comunque continueremo ad ascoltare la tua musica, anche se tu sarai immortale, anche, quindi anche vedremo. Se sarete morti, è quello che vuoi dire. Esatto. È quello che vuoi dire. Esatto. Cosa si deve aspettare il pubblico che viene a ascoltare il tuo concerto il 23? Preferirai suonare i pezzi del nuovo album o spazierai un po' all'interno del tuo repertorio? Beh, sai, quando esce un album cerchi sempre di suonare le cose più recenti, poi è chiaro che suoni anche roba vecchia, ma parliamo del fatto che probabilmente questo concerto non ci sarà, che probabilmente pioverà, visto che stanno annunciando catastrofi meteorologiche per la prossima settimana. E probabilmente con qualche giorno di anticipo ci verrà detto che il concerto non si fa nemmeno stavolta perché qualcuno minaccia pioggia. No, sono molto scettico rispetto a tutto quello che è la gestione dell'universo in questo momento. L'universo in questo momento è gestito molto strano e non farci domande sul perché ci stiamo rincoglionendo tutti quanti e stiamo guardando tutti dei programmi che parlano di chef in cucina e nient'altro, c'è qualcosa che non va in tutto questo, capito? Quindi non so che dire, sono veramente disorientato rispetto alla vita dell'universo tutto qua. Dai, noi speriamo, al di là di allerte, false allerte meteo, comunque contesto pandemico. Stavo scherzando chiaramente sulle false allerte meteo. No, certo. Era una battuta, chiaro, però. No, noi comunque speriamo che questo concerto si possa fare e quindi io ti auguro una buona serata per il 23 e anche poi per tutto il resto e ti ringrazio per questa chiacchierata. Una chiacchierata che non ha risolto niente, però era divertente farla. Dai, ciao. Ti ringrazio. Buona serata, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao. Ciao.